gli articoli 521,1, 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara Berlusconi Silvio colpevole del reato a lui ascritti e ritenuto la continuazione, lo condanna alla pena di anni 7 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, dichiara l'imputato interdetto in ufficio dai pubblici uffici, nonché in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena. Come fai a sospettare che uno 20 anni fa condannato per il fatto sia un po' con